hanno il benché minimo pensiero di dover andare a fare un prelievo al bancomat, stanno lì belli spavanzati al sole. Direi che però il vicepresidente ha vinto il premio fedeltà, hai visto come si muove, come con conosce tutte le trasmissioni. Vuole un libro di cuore o di denari? Sa che noi lo regaliamo. Ottimo. Tutte e due, vedi che si allarga. Fumo di fiori di figlio. Fa caldo, ma qui si sta meglio. E quindi questo immagino che sia anche come dire, una rasserenazione, un rasserenamento, come si dice adesso? Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Oggi voglio parlarvi di un progetto che ribadisce un concetto fondamentale che trova conferme nell'esperienza di molti di noi e nei dati di numerosi studi, e cioè che non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura della propria salute, e l'alimentazione è il modo più semplice per iniziare a farlo. Se l'idea vi alluzza, ma siete un po' a corto di idee, vi manca la tecnica, andate sulle pagine del nostro programma e consultate le ricette che i nostri esperti hanno preparato per i nostri magnifici 8 protagonisti di Cuore Denari Expo, il nostro reality che insegna a mangiare bene per stare meglio, perché la salute viene mangiando, uno slogan che è il titolo del progetto di cui parleremo tra poco, che punta proprio a promuovere l'alimentazione come terapia, non solo nella prevenzione ma anche nella cura di malattie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari. 800 24 00 24, mi è caduta la penna, io vi ho dato il nostro numero verde, voi sapreste darmi, o meglio dirmi, il valore della vostra glicemia? Vi aspetto. E chissà se al nostro numero verde saprete anche dirci qual è il prezzo che riuscireste a sostenere per l'acquisto di una casa oggi. Certo, lo sappiamo, dipende anche dal mutuo che la banca può erogarvi. Avete provato intanto a chiederne uno di recente, siete riusciti ad ottenerlo? Oppure siete già proprietari di una casa, vorreste venderla e non riuscite a trovare un acquirente? Il mercato immobiliare, lo sappiamo, tocca i nostri denari, le nostre vite in modo molto importante. Nei dati che lo fotografano a livello nazionale si ritrovano le esperienze di tutti noi. Noi oggi torniamo a parlare, nella seconda parte di Cuore Denari, per la pagina di Denari, proprio mentre vengono presentati i dati dell'osservatorio Nomisma, dell'andamento del mercato immobiliare. Come va il mattone italiano? Raccontatecelo anche voi all'800 24 00 24. Quali sono i prezzi che avete attorno a voi al metro quadro? Oppure siete pronti a vendere la vostra casa? Non volete abbassare il prezzo, offerta rigida, quindi non trovate nessun acquirente? Raccontatecelo un po' e noi ci confronteremo con i nostri ospiti. Professor, ma voi fate qualche dieta? Magari. Ma cosa intendi tu per dieta? La dieta del fantino, del pilota, messe cresce, castadallo, faccio watch. Perbacco, ma sei un vero e proprio dietologo. Quasi quasi. E tu che dieta fai? Nessuna dieta, perché a casa mia si mangia normale. Cioè? Pasta e fagioli, brodo di polipo, polipetti con olive e chiapparielli, zuppa di carne cotta, la cuve, micellelle, olio, carne di porco, soffitto, piselli, uova, polpette, salsicce, pizze, pizzette, cachi, pere, ciliegie, dattili e melone. Mi fai venire una fame. E per dolci, babà, sciuscia, cioccolata a crema, pastiera, mille foglie, zippole di San Giuseppe, cannolava siciliana, deliziose, sfogliatelle, struffoli e roccocò. Che fame! D'altronde la salute viene mangiando. Stavo pensando alla faccia che potrebbero fare i nostri coach di Cuore Denari Expo a sentire questo ben di Dio. Allora, si chiama La salute viene mangiando, piatti sani per il diabete non solo, è promosso dal Ministero della Salute per l'Expo di Milano e ha come obiettivo dimostrare il ruolo chiave della dieta mediterranea non solo nella prevenzione ma anche nel trattamento di malattie epidemiche come il diabete e le cardiopatie. Ne parliamo con la senatrice Emanuela Baio, che ne è l'ideatrice e la promotrice. Buongiorno senatrice, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno, grazie, sono contenta di essere con voi. Grazie. Speriamo di essere una donna di cuori e un pizzico anche di denaro. Penso io poi a lei, ci penso io. Senatrice, chi punta sull'alimentazione investe in salute. L'indicazione è valida non solo per chi è in salute, ma per chi in salute vuole tornare. Quindi alimentazione come prevenzione, ma anche come terapia, come appunto sottolinea il progetto di cui lei è ideatrice. Sì, è un'affermazione, come posso dire, è una sfida, è un'affermazione molto impegnativa questa di considerare l'alimentazione sana, i piatti sani per il diabete non solo, perché ci occupiamo anche di malattie cardiovascolari che sono le maggiori complicanze in cui incorrono le persone diabetiche, attraverso un'alimentazione corretta e l'esercizio fisico costante noi possiamo curare la patologia diabetica e le malattie cardiovascolari. Chiaramente l'alimentazione e l'esercizio fisico non sono sostitutivi del farmaco, perché per esempio le persone diabetiche insulino dipendenti devono comunque assumere l'insulina, così come le persone diabetiche tipo 2 devono assumere gli ipoglicemizzanti. Però c'è un però importante: non ti serve solo per prevenire le malattie, ma se ti alimenti correttamente, se ti muovi tutti i giorni, fai esercizio fisico quotidiano, tu stai sicuramente meglio e previeni anche l'insorgenza di molte patologie. Cito un dato: il 64% circa delle persone diabetiche tipo 2 sono anche obese, quindi alimentazione infatti sana. Infatti si parla di diabesità, senatrice. Di diabesità, infatti. Ne parleremo tra poco con il prossimo ospite. Infatti, allora guardi, è una sfida, l'ho definita una sfida perché è una sfida che è stata subito raccolta dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che appena gliene ho parlato ha ritenuto che fosse un buon progetto da presentare tra i progetti del Ministero ad Expo. Perché? Perché sembra tutto così banale e scontato, ma di fatto non lo è. Le persone diabetiche, mentre assumono in modo abbastanza appropriato i farmaci, fanno molta, molta fatica ad assumere invece una dieta corretta, certo, ad alimentarsi correttamente, fanno molta, molta quindi fatica. Quindi l'alimentazione fa parte della terapia ed è uno strumento, sì, che aiuta le persone affette da diabete a controllare la malattia. Certo, controllarla meglio, a prevenire l'insorgenza. E a prevenire anche le complicanze. Ti permette di stare meglio, guardi, te ne accorgi quando per esempio tu fai esercizio fisico. Io sono una persona diabetica, se vuole le do anche in diretta il valore della mia glicemia in questo momento. Grazie, che è 100. Così prendono anche così i nostri ascoltatori seguono il suo esempio. Grazie, certo, senatrice. 139, in questo momento io porto il microinfusore con la rilevazione costante H24 della glicemia, quindi so sempre se sono in una situazione di rischio oppure no, e questo mi permette di vivere molto meglio. Accanto a questo, se io mi alimento correttamente e se faccio esercizio fisico tutti i giorni, il mio andamento glicemico, il mio valore della glicemia resta sempre in un valore equilibrato. Questo 139 è un valore, poi ce lo dirà il diabetologo, comunque ancora sotto controllo per una persona, certo, diabetica come me. Io sono diabetica da 50 anni, quindi è tantissimo che vivo con questa patologia. E si può convivere bene, si può davvero anche gioire del gusto della tavola, del gusto dell'esercizio fisico. però purtroppo non tutti lo considerano ancora terapia. Quindi speriamo che questo progetto aiuti tante persone a prendere la consapevolezza, persone affette da diabete, a capire l'importanza dell'alimentazione anche per ridurre il peso, che è uno dei problemi, infatti, come lei anticipava, molte delle persone affette da diabete sono in sovrappeso. Posso aggiungere un solo concetto? Questo permette anche di risparmiare molte risorse dal punto di vista economico. In un momento di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, pur curandoci bene, se noi spendiamo meno soldi, è un bene per tutti, è un investimento per tutti, perché speriamo che permetta anche una diminuzione delle imposte, delle tasse che lo Stato ci fa pagare, oltre a vivere meglio. Senatrice, noi l'aveva promesso e infatti è stato un intervento per in perfetto stile cuore denari. Adesso deve solo dirci dovremmo se deve regalarle comprare un casa. Libro. Ecco, chissà se deve comprare se casa. Se vuole traslare la sua presenza anche nella seconda parte della trasmissione, siamo pronte per una consulenza immobiliare, senatrice. Guardi, ho una casa di proprietà, in questo momento non ho risorse sufficienti per comprare una casa, però ascolto. Grazie. Perché magari mi viene voglia se dovessi avere maggiori risorse. Grazie senatrice, grazie per essere stata con noi, buona grazie giornata e complimenti. Arrivederci. Grazie, arrivederci, buongiorno. 800 24 00 24, il nostro numero verde è a vostra disposizione, chiamateci se avete ricevuto diagnosi di diabete, ma non esitate a contattarci se il valore della vostra glicemia è borderline, in una zona grigia, se avete familiarità per il diabete, se siete sovrappeso e quindi potenzialmente a rischio di sviluppare questa malattia. Oggi abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Enzo Bonora, professore di endocrinologia dell'Università di Verona, oltre che presidente della Società Italiana di Diabetologia. Professor Bonora, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, il progetto che la senatrice Baio ci ha illustrato invita tutti, non solo le persone affette da diabete, a sfruttare la caratteristica salutare della dieta mediterranea, che sono ormai provate da numerosi studi. Tutti noi crediamo, per il solo fatto di vivere in Italia, di seguirla, ma lo sappiamo bene, la realtà è diversa. Professor Bonora, per dieta mediterranea, sembra strano doverlo specificare, ma che cosa si intende? O meglio, quali sono le peculiarità della dieta mediterranea che portano a salute? In questo modo rispondiamo già ad alcuni messaggi che ci invitano a dare qualche esempio di dieta. Professor Bonora. Sì, la dieta mediterranea è il modo di mangiare delle persone che vivono intorno all'area del Mediterraneo e che si distingue da quella, ad esempio, del Nord Europa o di altre realtà per una maggiore quantità teorica, devo dire in questo momento teorica, perché poi le cose ovviamente sono molto cambiate, una aumentata quantità di pesce, un'aumentata quantità di frutta, di verdura, di olio d'oliva, di cibi che in questo momento vengono considerati come quelli da preferire nel momento in cui ci si siede a tavola, ma che con sempre meno frequenza vediamo serviti nei piatti che consumiamo giornalmente. Da questo punto di vista credo che vada anche però ricordato un aspetto, che non è solamente una questione di qualità del cibo per costruirsi un futuro più sano, ma noi saremo quello che avremo mangiato e vivremo in funzione di quello che avremo mangiato, no? È molto importante ricordare questo. Abbiamo delle potenzialità con la medicina attuale davvero di vivere oltre i 100 anni ed è effettivamente il benessere, tutto quello che sta intorno al benessere, che in questo momento sta ostacolandoci. Ci sono eventi che riusciamo ad affrontare, patologie che una volta ci uccidevano, dalle quali sopravviviamo, potremmo avere una grande potenzialità e in questo momento quello che mangiamo sta creando un ostacolo al raggiungimento effettivamente di certi obiettivi. E allora la riscoperta del modo di mangiare che c'era anche solamente pensando a 50 anni fa in questo paese. Il problema però non è solo la qualità, ma è anche la quantità, perché uno può ragionare, facciamo il classico esempio, l'olio d'oliva. L'olio d'oliva va benissimo, però se uno beve un litro, condisce con un litro di olio d'oliva al giorno, non va chiaramente bene perché le calorie introdotte sono tante. Si ricorda ad esempio, bisogna prenderlo di qualità, basta poco per dare sapore ai piatti e anche arricchire la nostra dieta di tutte quelle preziose sostanze che sono contenute nell'extravergine d'oliva. Non bisogna farci il bagno, giusto professor Bonora? Chiaro, come ad esempio, insomma, buon senso, professore. L'alimentazione non deve essere di negazione, nel senso che tutto può essere sostanzialmente assunto. Quello quindi non è una punizione, però bisogna essere attenti a utilizzare il buon senso e a conoscere quello che si mangia, perché in questo momento credo che vada fatto un grande sforzo per aumentare il livello di conoscenza del contenuto, la composizione dei cibi, il contenuto in energia, cioè in calorie dei vari cibi. Ci sono tante situazioni in cui uno, anche apparentemente una persona abbastanza colta da questo punto di vista, che fa degli insomma errori, l'errore è dietro l'angolo. Professor Bonora, faccia anche lei, l'abbiamo invitata anche alla senatrice Baio, un saltino sulle pagine del nostro progetto Cuori Denari Expo, in cui abbiamo così dato, individuato 8 profili e chiesto a 2 coach, un collega, un suo collega, un medico e un cuoco, di preparare dei menu che riuscissero a salvaguardare un po' il gusto e la salute. Professore, quindi dietro il menu non è la chiave di volta, perché la chiave di volta non è quello che uno magari mangia a quel momento in cui si siede a tavola, in cui forse riesce a modificare qualcosa. E in questo momento noi abbiamo il problema anche del numero delle volte in cui le persone mangiano. E ci sono diversi momenti della giornata in cui c'è un accesso neanche percepito più di tanto al cibo, sì, la cosa che si trova in giro di qua e di là, la merendina, lo snack, l'interruzione, che viene fatto alla ricerca di una ricompensa, non perché c'è una necessità nutrizionale. Quello non serve per sopravvivere, serve il cibo per ha tanti nutrire. Significati, ne abbiamo dedicato una bella puntata che invito i nostri ascoltatori a cercarla, a riascoltarla in podcast. Professor Bonora, io tornerei alla nostra dieta mediterranea, soprattutto ad alcuni dati che dimostrano che la dieta mediterranea è in grado di produrre risultati talvolta superiori ai farmaci. Insomma, stile alimentare con le caratteristiche che lei brillantemente ci ha illustrato batte terapia farmacologica. Sembra straordinario detto così, ma ci spiega? Sì, se lei prende le persone col diabete alla diagnosi, sì, in questo paese, in Italia, ci sono circa 250.000 nuove diagnosi di diabete ogni anno, no? Sì. I cittadini col diabete sono 4 milioni, sanno di averlo, un altro milione non sa di avere la malattia, 5 milioni in tutto, vuol dire uno ogni 12 persone, un numero che è raddoppiato in 30 anni e che, se il trend continua, raddoppierà in altri 30. Questo ha un effetto devastante dal punto di vista economico per la società, non solamente chiaramente per l'individuo. Costi e per le famiglie, perché per le famiglie, per c'è sempre una famiglia. È un enorme impegno, sì, no? Individuale, della famiglia, della società e così via. Allora, se prende il paziente diabetico di nuova diagnosi, quello che lei, con diabete tipo 2, quindi sì, diabete più diffuso, 95% delle persone ha diabete tipo 2, molto associato all'eccesso di peso, e li mette in dieta, il calo che osserva sui parametri di controllo della glicemia è superiore a quello che osserva con i farmaci orali, non con l'insulina, che chiaramente ha degli effetti certo, molto maggiori, però solo con la dieta si ottiene di più. La dieta è un cardine non solo della prevenzione del diabete, ed è dimostrato scientificamente, ma è un cardine irrinunciabile della terapia. Se lei immagina il problema del diabete, nel diabete c'è poca insulina o zero insulina, e quindi quando uno mangia, i carboidrati del cibo fanno sì che la glicemia, lo zucchero nel sangue, aumenti. Se c'è l'insulina, questo non succede. Se l'insulina non funziona bene o è poca, questo succede. Per cui ogni volta che uno mangia c'è questo problema. Certo. E quindi mangiare in un certo modo piuttosto che in un altro fa un'enorme differenza. Per cui è un cardine della terapia, più dei farmaci orali, e diciamo con un'importanza, con una dignità assolutamente pari a quella dell'insulina, una persona che deve fare insulina perché altrimenti morirebbe, perché l'insulina non ne ha più. Ecco, mi piace sottolineare questo dato. Naturalmente per adottare uno stile alimentare ci vuole conoscenza, impegno, determinazione, mentre talvolta la pillolina, anche con tutte le resistenze che possiamo avere nei confronti dei farmaci, si butta giù con maggiore facilità. Professor Bonora, oggi avremo anche l'occasione per chiedere ai nostri ascoltatori qual è l'ultima volta che hanno misurato il valore della loro glicemia, perché lei l'ha anticipato, ci sono tante persone che sono diabetiche senza saperlo, quindi l'invito è 800 24 00 24, raccontateci, se lo sapete, il valore della vostra glicemia. Insieme al professor Bonora cercheremo di capire quanto una glicemia borderline ci espone a un rischio e quali sono invece gli effetti della dieta nel ridurre i valori della nostra glicemia, quando va misurata e come si muove. Adesso è tempo di capire come si muovono i mercati. Così. E allora 800 24 00 24, nella seconda parte della nostra trasmissione, prima di occuparci del mercato immobiliare, naturalmente le telefoni aperti, mano alla cornetta come dice Deborah, per raccontare al professor Bonora un po' la vostra dieta, ma anche e soprattutto se avete e conoscete il valore della vostra glicemia. Tra poco. Cuore e denari. Ballarlo questo ballo del mattone, ma il mercato immobiliare italiano purtroppo non sembra riuscire a muoversi molto. I prezzi in realtà da qualche anno scendono, ma la percezione degli italiani, dei potenziali acquirenti, è tutt'altra. Questa almeno è la fotografia dell'osservatorio Nomisma, che viene presentato proprio oggi, proprio in questi minuti a Bologna, sui dati del primo semestre 2015 raccolti nelle consuete 13 grandi città italiane. Un mercato non così robusto come era stato previsto all'inizio dell'anno. Poi con l'analista di questo rapporto ci faremo raccontare qualche dettaglio in più e naturalmente questi dati li commenteremo con altri esperti e con voi, vi chiederemo la vostra esperienza. Vorreste comprare casa ma non ci riuscite perché? Prezzi ancora per voi troppo alti? Avete cercato una casa che ha invece un acquirente che non abbassa il prezzo? È una questione di sfiducia, un panorama fiscale ancora confuso? Guardate che anche la questione greca sta pesando secondo alcuni interlocutori. 800 24 00 24 del mattone italiano. Torniamo a parlare tra poco. Quale libro di dieta stai cercando? Non lo so, qualcosa con un titolo del genere. Chi vuol perdere tutti i chili di troppo senza fare un bel niente? Che ne dici di quello? Ti prego, no. Credevo facessi sul serio. Ed è vero. Non appena avrò finito questo dannato coso al caramello e nocciole. La salute viene mangiando, è quasi ora di pranzo. Che cosa mangerete oggi? Chiamateci, diteci il vostro menù e vi diremo se la vostra scelta è un buon investimento per la nostra salute. Come mi rendi soddisfatta? Oh, allora, a decretarlo è il professor Enzo Bonora, professore di endocrinologia dell'Università di Verona, oltre che presidente della Società Italiana di Diabetologia. Professor Bonora, nell'attesa dei nostri menù, in perfetto stile mediterraneo, ci auguriamo, cerchiamo di capire quale dovrebbe essere il valore della nostra glicemia e soprattutto a chi lei suggerisce di misurarla? Allora, il valore ideale è qualcosa che sta intorno a 80-90. Diciamo che viene considerato ancora nella normalità un valore fino a 99. Sì. Da 100 a 125 compreso, tiene in quella che lei ha definito giustamente l'area grigia, che potremmo chiamare anche in gergo l'anticamera del diabete, perché le persone che hanno una glicemia in quell'area grigia sono le persone che hanno il maggior rischio di diventare diabetici nel corso degli anni successivi. Grosso modo un terzo delle persone con quelle glicemie lì nell'arco di 5 anni avrà una diagnosi di diabete. Ovviamente quanto più vicino è al 125 e tanto più lontano quindi si è dal 100, tanto peggio è, cioè certo. 103 è meglio di 120, no? Da 126 compreso in su, stiamo parlando della glicemia a digiuno misurata in laboratorio, non della glicemia che uno può misurare a casa con quei glucometri, con quei piccoli apparecchi che usano le persone col diabete per monitorare la situazione e che magari qualcuno usa dei loro familiari o dei loro amici per vedere in qualche momento che glicemia ha, no? Quindi laboratorio e non quello strumento lì. Sì. Da 126 compreso in su è diabete. Ci sono altre metodologie per fare la diagnosi un po' più articolate, ma diciamo la glicemia a digiuno va benissimo e la raccomandazione per rispondere alla sua seconda domanda su quando misurare è: se si è in eccesso di peso, se si hanno familiari vicini di primo grado, quindi genitori, fratelli con il diabete, anche più precocemente di quello che accade negli altri, tutti gli altri le raccomandazioni sono dopo i 40-45 anni, una volta all'anno. Quelli che sono particolarmente in eccesso di peso, la famiglia, anche prima, anche quando ne hanno 30, anche quando ne hanno 35, se hanno fattori di rischio come quelli che ho citato. Proprio quindi, se dei vostri ultimi esami avete scoperto che la vostra glicemia tocca H100 li supera di poco, chiamateci. Un invito che naturalmente non deve essere fonte di preoccupazione, dire oddio che cosa succede, ma vorrebbe essere un modo per convincervi ad occuparvi con più attenzione della vostra salute, perché professor Bonora, in quella che abbiamo definito zona grigia, anticamera del diabete, quindi con i valori della glicemia che stanno tra i 100 e i 120, la dieta funziona. Certo. Ora, intanto quelle persone lì non sono poche, perché in Italia si stima che siano a 4-5 milioni, d'accordo? Per cui molti di quelli che staranno ascoltando in questo momento sono nell'area grigia. Per cui soprattutto a loro la raccomandazione è: fate qualcosa per evitare che vi caschi addosso fra qualche tempo il diabete, e quel qualcosa che dovete fare è esattamente modificare un po' lo stile di vita. Ho detto un po', non a caso, perché... bisogna anche lì usare molto buon senso. Allora, sì. Le persone sono inserite in un contesto sociale, in un contesto familiare, non sono persone che non hanno rapporti con tutto quello che c'è intorno e sono chiaramente influenzate da tutto quello che accade intorno, non possono estraniarsi dal contesto sociale e familiare, per cui non devono fare delle cose insensate che non possono essere replicate nel corso del resto della vita. Ma dobbiamo fare delle scelte che noi possiamo proseguire nel tempo. Okay. Delle piccole cose. Adesso, siccome avete usato lo slogan, ve ne do io un altro, che può essere: togli qualcosa dal tuo piatto, qualcosa, poi dopo ragioniamo sul qualcosa, e aggiungi anni alla tua vita senza il diabete. Allora, il qualcosa vuol dire... Diamo un libro anche al professor Bonora. Le daremo un libro di denari, prof. Lo vuole? Ho bisogno di denari. Ho sentito le vostre pubblicità sui mutui. Ho fatto un mutuo giusto stamattina, per cui ho bisogno di denari. Ma se si trattenga un attimo. Dove ha preso casa, professore? No, adesso non chiedetemi tutto. Ho preso qualcosa per i miei figlioli vicino a casa mia, perché noi siamo una famiglia vecchio stile. Subito dentro la catturata, niente. Però se si vuole fermare, noi nella seconda parte parliamo di casa. Adesso lei ci dica che cosa togliere, perché poi voglio parlare di un altro bel progetto e voglio dare la linea ai nostri ascoltatori, il tempo scappa. Okay, cosa togliamo? Allora, togliamo qualcosa, quello che uno vuole ogni giorno, anche cambiando da un giorno all'altro. È chiaro che la prima cosa che viene in mente è: togliamo le cose dolci, perché sono le cose che danno più stress alle cellule che producono insulina. Sì. Per cui l'abitudine in questo momento, fate un survey se volete ai vostri ascoltatori e ai cittadini, guardatevi intorno, non c'è giorno in cui in questo momento una persona che non ha il diabete, ma purtroppo anche alcuni che hanno il diabete, non mangi qualcosa di dolce, che una volta tipicamente era mangiato la domenica. La domenica. Quindi... No, adesso è tutti i giorni, ma non solo alla fine giorni, pasto, ma si dice, più volte al giorno. Perché dobbiamo nutrire quella parte del nostro cervello che è l'area limbica di una ricompensa, d'accordo? Qual è la ricompensa più accessibile? Non è uno bello spettacolo, non è la vittoria della propria squadra di calcio, la mia vince una volta ogni 10 anni, non è l'amore fisico. Sarà l'Inter allora, ma è il cibo, la cosa più accessibile e più a buon mercato, che è la nostra ricompensa. Allora dobbiamo ricompensarci con qualcosa d'altro se possibile, ma di quelle cose lì dobbiamo togliere qualcosina tutti i giorni in maniera molto riproducibile. Togli qualcosa, aggiungi salute. Ci è piaciuto qualcosa. Dal piatto aggiungi salute. Intanto dico ai nostri ascoltatori che sono intervenuti, ci hanno mandato messaggi, mail, hanno chiamato il nostro numero verde, di chiamarci, anzi di scriverci, perché il tempo scappa, non riusciamo a dare risposte, ma il professor Bonora è stato molto preciso nelle sue indicazioni. Nel caso scriveteci e gireremo la vostra richiesta al professor Bonora. Io vorrei presentarvi però un altro progetto dell'Università di Brescia, perché se è vero che la salute viene mangiando, prima si inizia, più generosi e duraturi saranno i risultati. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Sergio Pecorelli, rettore dell'Università di Brescia. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi. Continuiamo a raccontare progetti che puntano a insegnare a fare delle piccole modifiche al nostro stile alimentare. Voi le insegnate già agli universitari. Ci racconta il progetto, una bella iniziativa? Sì, ma il progetto deriva da un'idea, che è quella che naturalmente i ragazzi, quando vanno a mangiare, no, in mensa, a luna circa, hanno molta fame. hanno molta fame perché la mattina è stata lunga, le lezioni, una cosa l'altra, e non solo, ma poi si lasciano anche tentare molte volte, va bene, da ciò che presenta la mensa, no? Magari a volte mangiano due primi, a volte, insomma, è una cosa un po' scorretta. Allora, a questo punto noi abbiamo pensato A, di educarli, ma B, anche di lasciare a loro le scelte dal punto di vista poi educativo. E allora abbiamo pensato di fare innanzitutto avere da parte degli studenti, cominceremo con le matricole di quest'anno, ad avere il profilo dello studente, no? Lo studente fa una specie di anamnesi propria, sì, d'accordo? E in più naturalmente il nostro servizio di prevenzione è a disposizione. Dall'altra parte, quindi abbiamo un po' alcuni dati anche antropometrici importanti della persona e il profilo. Dall'altra parte c'è un'app per gli smartphone, ormai sì, tutti gli studenti tutti li usano, anche chi non è più studente, professore. Bravissimo, ecco, e in questo possono visualizzare il menu giornaliere, quello del giorno corrente e anche quello dei giorni successivi. E la mattina loro vedono il menu, d'accordo, e decidono che cos'è che vogliono mangiare. Ma attenzione, nel momento delle scelte, questo app gli dice, guarda che per te, con questa scelta che hai fatto, primo, hai già superato per esempio il 40% di quello che tu dal punto di vista calorico potresti mangiare. B, ogni piatto che ha queste caratteristiche e queste magari non si addicono a te, queste altre sì. Insomma, allora, un grillo parlante, professor Pecorelli, un grillo parlante. Perché allora, gli aiuta ad adottare la stile alimentare proprio... cucito su misura, magnifico. Esatto. Dopodiché loro schiacciano il loro bottone, questo viene fatto la mattina entro le 9:30, in modo tale che non hanno ancora tanta fame, che c'è di solito all'una, va bene, alle due, e poi viene un codice barre. Quando si presentano in mensa, il codice barre, va bene, fa arrivare immediatamente il piatto già pronto. Quasi quasi mi iscrivo, andiamo anche, vengo all'università della Brescia. Terza Italia, molto, guarda, una seconda laurea gliela diamo volentieri. Professor Pecorelli, io devo salutarla, devo salutare il professor Bonora che è stato con noi, e diamo adesso tra poco ci occupiamo di case, intanto complimenti per tutti e due i progetti e speriamo che insomma tutti insieme appassionati riusciamo a ritornare ad uno stile alimentare che sia preventivo, protettivo e anche svolga una funzione terapeutica, cioè restituisca la salute. Grazie al professor Pecorelli, grazie al professor Bonora. Grazie a tutti. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. E poi quelle sul mattone. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Alessandro, un architetto, ci scrive: signore belle, l'offerta di case c'è, manca la domanda. Il problema non è il prezzo delle case, il problema è relativo alla miriade di tasse che ruotano attorno alla casa. Sono troppe, troppo alte, non vi è certezza sulla loro consistenza, la gente ha paura. Alessandro ha centrato in pieno il problema che vive il mercato immobiliare in questo momento. La pensano così, Alessandro, tanti italiani che si sono progressivamente allontanati dal mattone come investimento negli ultimi anni. Intanto l'Istat la settimana scorsa ha certificato che l'indice dei prezzi delle abitazioni nel primo trimestre di quest'anno è diminuito dello 0,7%. La diminuzione complessiva delle quotazioni dal 2010 ha raggiunto il 13,7%. Noi stamattina aggiungiamo un altro rapporto molto autorevole, è quello di Nomisma, che decreta ancora una volta una condizione di stallo per il mercato immobiliare italiano, per il quale era stato pronosticato invece un miglioramento a gennaio scorso. Nicoletta, il rapporto viene presentato proprio in questi minuti a Bologna e noi poco fa abbiamo raggiunto il curatore Luca Dondi. Ad inizio anno Nomisma, lo ribadisco, aveva parlato di un mercato che si stava irrobustendo, quindi la prima cosa che abbiamo chiesto a Luca Dondi è proprio se questa previsione è stata confermata o se è andata così come si pensava. Sentiamolo. è andata un po' meno bene rispetto alle aspettative, il mercato è leggermente cresciuto ma molto meno rispetto a quanto avevamo ipotizzato, le compravendite sono in linea con quelle che erano lo scorso anno alla stessa data, mentre i prezzi hanno proseguito una tendenza negativa anche se con un'intensità del calo più contenuta rispetto al passato. Le città con i trend più forti? Gli andamenti sono altalenanti, in questo momento segnali di stabilizzazione arrivano da Bologna e Milano, soprattutto Milano è il mercato che solitamente anticipa le tendenze del paese, si tratta però ancora di una fase interlocutoria, non c'è una tendenza netta di miglioramento ed è il motivo per cui siamo abbastanza cauti rispetto all'evoluzione del secondo semestre. È probabile che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche la crisi greca sortirà effetti più forti di quelli che abbiamo visto fino a questo momento. Secondo lei come questo si ripercuoterà sul mercato immobiliare italiano? Come si assesterà il 2015? Ripercuoterà in maniera negativa, il mercato oggi vive di fiducia e qualsiasi evento esogeno che possa mettere in discussione la fiducia che si è a torto ragione diffusa nel primo semestre è un elemento potenzialmente controproducente per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, per cui sono bastate le tensioni di questi giorni per differire iniziative di investimento e questo potrebbe avere effetti molto negativi sulle prospettive a breve termine. Peraltro queste sono le stesse considerazioni che ieri ha fatto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, presentando a sua volta il loro rapporto. Scenari Immobiliari parla proprio già di un effetto Grecia sull'andamento del mercato immobiliare italiano. Al di là di come è andato il referendum, ha spiegato ieri, la preoccupazione si vede già da un mese sul mercato italiano, che si avvia quindi verso un 2015 in linea con l'anno passato e quindi senza una vera ripresa. Raccontateci voi come la pensate sull'investimento nel mattone. 800 24 00 24, diteci che prezzi vedete attorno a voi, state già sondando le quotazioni al metro quadro della casa dei vostri sogni, state rimandando l'investimento, l'acquisto della vostra prima casa proprio perché ancora non ci sono le quotazioni che ritenete adeguate. Per commentare questo andamento e anche per dare qualche suggerimento pratico agli amici di Cuore e Denari pronti a comprare casa ma magari indecisi per via dei prezzi, abbiamo interpellato gli agenti immobiliari, Nicoletta, perché mi sembravano le figure più... Abbiamo avuto un'ottima idea, come sempre. Sarà d'accordo Paolo Righi, presidente della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che negli ultimi anni hanno sfidato un mercato davvero difficile e complicato per la crisi, le difficoltà economiche delle famiglie italiane, per il credito mancante, la tassazione crescente sulla casa di proprietà e tanto altro ancora. Qua finisco la lista perché sennò deprimiamo ulteriormente. Righi, buongiorno, ben ritrovato. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, le chiedo subito un commento a caldo di questi due rapporti freschi di cui abbiamo parlato, che lei probabilmente conosceva già. Addirittura c'è chi parla di un primo effetto Grecia sull'andamento dell'investimento nel mattone italiano. Così subito, ma più che l'effetto Grecia c'è proprio una componente di fiducia degli italiani, giusto? Sì, diciamo che la fiducia è il motore che muove i mercati, ma nello specifico però il mercato immobiliare, come si diceva prima, e anche quanto emerge dai rapporti, dal rapporto di Nomisma, è pervasa da una tassazione talmente alta a questo settore che preoccupa molto gli italiani, e poi anche l'incertezza ad esempio sulla TASI, sull'IMU, su una pressione fiscale così alta che potrebbe variare. Oggi per fortuna il governo ha stoppato la riforma del catasto che ha procurato tante incertezze, quindi diciamo che una pressione fiscale altissima e un'incertezza per quanto riguarda la tassazione rende difficile l'acquisto per una fascia di persone, che è quella della prima casa, dei giovani che si approcciano appunto all'acquisto, che sono forse più preoccupati di quello che gli aspetta dopo, cioè sul mantenimento della proprietà, più che per l'acquisto. Sentirei subito un ascoltatore, Righi, per poi andare con lei a tutte le domande di rito su questo argomento. Soprattutto poi vorremmo da parte sua qualche suggerimento pratico su come affrontare nella maniera corretta il mercato immobiliare in questo momento, alla luce dello scenario di incertezza che comunque si va via via confermando purtroppo e non ridimensionando. funzionando. Subito Bruno da Roma, se non riusciamo a rispondergli trasleremo la risposta nella seconda parte del programma. Bruno, benvenuto. Sì, grazie. Dunque, io adesso faccio un po' un'analisi qua, perché sono 3 anni che sto studiando la situazione. La deve sintetizzare in 5 secondi, Bruno. In 5 secondi? Allora, lei sta cercando di vendere casa? Sto cercando da 3 anni di vendere casa e qui hanno venduto, qui nel mio Scala, qui hanno venduto a 3,60, prima vendevano anche a 3,80. Io quindi sono sceso adesso a 2,60 e ancora non si vende. Nel frattempo, cioè, qui stanno vendendo a 200, le immobiliari, le agenzie immobiliari stanno vendendo a 200, perché io adesso ho lasciato le agenzie immobiliari e sto prendendo da solo. Bruno, purtroppo devo sentire il giornale radio, no, per fortuna, perché ci aggiorniamo. La portiamo con noi nella seconda parte del programma, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della fine. Come cambia l'Italia vista dal tuo finestrino? Raccontaci il tuo viaggio on the road con una foto, postala su Instagram o Facebook con l'hashtag TrackinReportage e inserisci nella descrizione Radio 24. I migliori scatti saranno in mostra al Festival Internazionale di Fotografia Cortona on the Move. Tutte le info su radio24.it. Cuore e denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso un mutuo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso un mutuo. Eh sì, il mutuo continua ad essere la grande croce di molti italiani che vorrebbero mettere su casa, fare il grande passo, diventare proprietari, e magari leggono i giornali dove c'è scritto che i prezzi delle case scendono, che le banche danno molti mutui, poi chissà perché la realtà è sempre ben diversa. La percezione è che le quotazioni immobiliari siano sempre molto alte e la banca nicchia ancora se si chiede il mutuo. Qual è la vostra esperienza? Già ci state tempestando di telefonate al nostro 800 24 00 24. A prescindere dal mutuo, certamente raccontateci se state facendo fatica ad ottenerlo, ma noi stiamo proprio facendo un focus stamattina sulle quotazioni del mercato immobiliare, perché sono giornate in cui sono in corso di diffusione i rapporti più importanti sull'andamento di questo comparto. Ieri è stata la volta di scenari immobiliari, nei giorni scorsi l'Istat ha reso noto come è andato il primo trimestre dell'anno. In questi minuti è in corso di divulgazione il rapporto Nomisma sull'andamento delle 13 principali città italiane. Noi questa mattina abbiamo raggiunto Luca Dondi, direttore generale di Nomisma. A lui abbiamo chiesto anche, oltre alla prima parte dell'intervista che abbiamo sentito all'inizio di Cuore e Denari, perché tra le famiglie italiane, nonostante la voglia di trovare casa, poi non si riesca a soddisfare questa intenzione, questo interesse potenziale. Sentiamolo. Sono famiglie essenzialmente deboli dal punto di vista economico, provate dalla crisi, che hanno una grande esigenza di supporto da parte del sistema bancario, e questo supporto, al di là di intenzioni e dichiarazioni, sta arrivando al mercato abbastanza col contagocce. Questo significa non tradurre la molta domanda di mutui che attualmente esiste in numero di transazioni. L'offerta di immobili sul mercato invece che caratteristiche ha? L'offerta è innanzitutto sovrabbondante, si tratta di immobili per lo più usati, anche se la quota di nuovo, anche se in lento assorbimento, è comunque una quota molto significativa, e questo è testimoniato anche dalle tendenze negative che non sono limitate all'usato ma sono anche diffuse sul nuovo, proprio perché c'è un evidente eccesso di offerta e il mercato stenta ad assorbire le quantità che sono presenti oggi in vendita. E i venditori che tipo di propensione hanno rispetto agli immobili che devono vendere, appunto? È vero che c'è un'offerta ancora molto rigida da questo punto di vista sui prezzi, le aspettative di realizzo sono ancora alte? Meno rispetto al passato, c'è maggiore consapevolezza, già l'immissione dell'immobile sul mercato, i valori sono più coerenti rispetto alla situazione, tant'è vero che lo sconto si è progressivamente stabilizzato, quindi c'è da parte dell'offerta ormai la convinzione che per arrivare a concludere le trattative ci sia bisogno di uno sforzo da subito di ragionevolezza sui prezzi da proporre al mercato. Qualche segnale interessante dal punto di vista del mercato degli immobili commerciali? No, ancora no, il mercato degli immobili commerciali soffre sia per quanto riguarda uffici che negozi, si tratta di settori che sono esposti alla situazione economica, e anche se da questo punto di vista ci sono miglioramenti sul mercato immobiliare, li vedremo tra qualche semestre, per cui su direzionale e commerciale dobbiamo attenderci ancora semestri difficili. Insomma, se dovessimo riassumere queste indicazioni di Luca Dondi, lo chiedo a Paolo Righi, presidente della FIAIP, il punto di vista degli agenti immobiliari, dobbiamo utilizzare ancora la parola stallo per definire l'andamento del mercato immobiliare italiano, Righi? Sostanzialmente direi di sì. C'è un fermento, noi l'abbiamo notato ormai da 7-8 mesi, è aumentato il numero degli italiani che cercano casa all'interno delle nostre agenzie di circa il 5%. La domanda di mutui a cui facevate riferimento, che poi si lega strettamente alla compravendita, su 100 domande circa 70 trovano risposte. Beh, non è un brutto dato però. No, assolutamente no. C'è che le banche hanno riaperto effettivamente i cordoni delle borse, ma con criteri diversi da quelli ante 2008. C'è un dato economico nazionale che crea problemi in merito alla solvibilità dei mutui. Certo. E quindi insomma il rallentamento è dato da una situazione generale e da una situazione, ripeto, di tassazione eccessiva, che è la più alta d'Europa. Le sofferenze bancarie d'altronde sono elevatissime, al punto che in Italia si parla della creazione di questa bad bank, dove far confluire questi crediti che ormai sono diventati inesigibili, come si dice in gergo, e lì dentro ci sono anche mutui che non vengono restituiti, appunto erogati in passato, e non vengono rimborsati alla banca. C'è stato tutto il pacchetto anche della moratoria sui mutui negli ultimi anni, e questo comporta che le banche siano diventate un po' più rigide. Noi diremmo anche un po' a ragione nell'erogazione del credito, perché essere anche un po' troppo elastici, Righi, poi comporta la situazione attuale. Esatto, oggi abbiamo un aumento soprattutto degli immobili all'asta, c'è un aumento del contenzioso bancario. E ci sono le banche che fanno le agenzie immobiliari, e so che questo è un tema che a voi innervosisce non poco. In un'altra puntata potremo parlare. Già ride. Allora Righi, facciamo una cosa, mettiamo tra parentesi questo argomento e teniamolo caldo per un'altra puntata, perché ci ancora sono le tue più grandi banche italiane, più caldo di così. E infatti ci sciogliamo. Due grandi banche italiane che hanno costituito proprio la loro divisione immobiliare per mettere sul mercato tutti questi immobili che hanno in casa, perché appunto i proprietari evidentemente non riescono a rimborsare il mutuo. Detto questo, vuole rispondere a Bruno da Roma, non lo abbiamo fatto concludere. Ci raccontava che nel suo stabile un appartamento che magari due anni fa poteva essere tranquillamente venduto tra 360 e 380 mila euro, adesso ha un prezzo di vendita molto inferiore ai 300 mila, addirittura 260. Adesso non sappiamo né dove abita, né qual è il quartiere, la qualità dell'immobile e tutto quello che vogliamo, no? Però un calo di prezzo notevole, Bruno, sì, ci stava raccontando. Roma è una città che vive questa condizione adesso? Io non credo. Ma allora, bisogna, come si dice, spacchettare il mercato. Le periferie, i prezzi nelle periferie di tutte le cinture urbane, i prezzi, il mercato è fermo e i prezzi sono calati di molto, mentre dentro le cinture urbane i prezzi, soprattutto nelle grandi città, sono sostanzialmente, hanno dei cali minori e comunque sostanzialmente la caduta si è fermata in questo momento. Infatti abbiamo assistito a qualche rimbalzo tecnico sui valori, quindi si presume che Bruno, l'ascoltatore, viva in un palazzo di periferia dove non è più il problema di vendere a un determinato prezzo, ma vedere se vi è una richiesta, perché negli anni passati si è costruito tanto nelle periferie, oggi il cliente cerca di rientrare nel centro storico, grazie all'abbassamento dei prezzi. Ci sta dicendo che fra un po' ci possiamo comprare un bilocale in Piazza Duomo, Nicoletta, io e te. magari. Ma no, è nella cintura urbana, non è nel centro storico di determinate città come Roma, allora Milano, sia più Venezia. Preciso. I prezzi, sì, non voglio dare false aspettative. No, sono sempre quelli, rigidissimi. Sono sostanzialmente stabili, però c'è un ritorno, mentre nel 2008, ante 2008 c'era la fuoriuscita dalle città e si andava in periferia, oggi la periferia è bloccata e c'è un ritorno alla città, diciamo, grazie ai prezzi bassi. Marco per esempio ci scrive al 349-238-6666, sono 8 anni che sto cercando di vendere un alloggio in provincia di Novara, nel corso del tempo ho dimezzato la cifra da me valutata secondo il mercato 8 anni fa, che era radicalmente diverso. Non riesco né a venderla né ad affittarla, ma continuo a pagare spese condominiali e tasse. Non so come uscirne effettivamente. Quale potrebbe essere una soluzione per casi limite come questo, Presidente Guardi, Righi? È una soluzione che non voglio prospettare, ma che sta aumentando, ci sono molti casi in Italia, quella della res nullis, cioè persone che ereditano dei beni per cui non possono pagare le tasse come seconda casa, ad esempio, e che cedono la proprietà allo Stato. Perché proprio non sono in grado di pagare le tasse. L'alta tassazione sulla seconda e terza casa non è da intendersi solo per coloro che hanno le ville, che ne so io, in Sardegna o in luoghi ameni, ma anche per chi ad esempio ha un mutuo, acquista una casa e poi ne riceve in eredità un'altra o altre due. Non è in grado di sobbarcarsi appunto tutte le tasse. È quello della gestione dell'esistente, cioè la tassazione è talmente alta, si immagini che a Roma una seconda casa può costare fino a 2.000 euro, 2.500 euro e per chi è dipendente, ha un reddito normale, viene a incidere pesantemente sul bilancio immobiliare familiare questa somma nel caso si stia già pagando un mutuo. Guarda, quindi stamattina abbiamo già idealmente confezionato 2 puntate, perché questa della res nullis onestamente, come si suol dire, esce da un fianco, io onestamente non avevo sentito parlare, sì. E da quello che mi racconta lei invece c'è un mercato che c'è, non sarà fiorente, però è un'opzione ben considerata. Sì, e poi c'è anche, a questo si accompagna anche, per quanto riguarda l'industriale, la parte industriale, il fatto che ad esempio nel fiorente nord-est molte imprese stanno scoperchiando i capannoni industriali per non pagare tasse, perché non riescono a sostenere. Quindi modificano le caratteristiche praticamente dell'immobile per abbattere la tassazione. Senta, ma per Marco, provincia di Novara e casi limite come questo, come dicevo prima, una più banale nuda proprietà? Ma guardi, allora, oggi il fatto della nuda proprietà e del rent to buy per chi acquista invece sono attività che dentro le nostre agenzie svolgiamo normalmente, sia per i giovani che per gli anziani che devono monetizzare il loro appartamento ma non saprebbero dove andare. Quella della nuda proprietà, ci sono società specializzate nel vendere la nuda proprietà e questa potrebbe essere un'occasione importante per Marco. Il problema è che se l'ascoltatore ha una casa all'estrema periferia di Novara o in un centro periferico, difficilmente al di là del prezzo non diventa più un problema di prezzo ma di mercato. Infatti Ugo da Torino ci scrive per esempio che a Torino ci sono delle case nuove vendute con la formula affitto per acquisto. Intanto 800 24 00 24 il numero verde a vostra disposizione. Chi sentiamo, Nicoletta? Andrei da Fabio che ci chiama da Ottimo. Milano. Buongiorno Fabio, benvenuto. Buongiorno belle signore. Ecco, che allora, buon gustaio. Bravo Fabio. Ci dica tutto. Io volevo farvi una domanda. Io sono in procinto di acquistare una casa e dovrei fare a breve la proposta di acquisto, se non che il venditore ho visto che ha un debito con il condominio piuttosto alto. Bella gatta da pelare, Fabio, glielo dico già subito. Questa cosa qui mi sta facendo un po' preoccupare. Chi lo deve pagare questo debito se io faccio il rogito? E come devo fare per non pagarlo? Beh, intanto guardi, l'ottima cosa è che lei sia venuta a conoscenza di questa situazione prima di fare qualunque proposta di acquisto, prima di mettere nero su bianco ogni proposta, no Righi? Perché mi pare che questo sia pacifico. Certo. Perché credo che una volta che la procedura, l'istruttoria di compravendita sia partita, ricadrebbero su Fabio questi debiti. Beh, guardi, è difficile trasferire un bene con delle ipoteche. Al momento del rogito, naturalmente, saranno presenti all'atto anche o precedentemente al momento del rogito i debitori per cui il notaio trasferirà il bene libero da pesi, vincoli e emissioni. Però non so, io credo che Fabio debba anche farsi mettere nero su bianco da qualcuno che quella cifra là non deve pagarla lui, che in qualche maniera devono risolvere la questione. Ecco, il notaio al momento dell'atto notarile, se è seguito da un'agenzia immobiliare insieme al notaio, lavoreranno affinché al momento del rogito questo debito sia estinto. Si immagini tutte le case che hanno un mutuo e che contestualmente l'ipoteca della banca viene cancellata al momento. Quindi diciamo Fabio deve fare in modo di potersi assicurare del fatto che una volta che pagherà questo immobile, magari una parte di questa cifra il venditore la trasferisca subito all'amministratore di condominio per chiudere quella pendenza. Deve avvenire precedentemente o contestualmente all'atto notarile. Quindi Fabio cristallizzi subito questa situazione, sia rigidissimo su questo aspetto. Diego da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Scusate, mi sono un po' raffreddato, ma poco male. L'aria condizionata. Esattamente. Se vuole qualche suggerimento di Nicoletta, è qua pronta. Si idrati molto. Ho ascoltato per caso, casualmente, la radio. Allora, qua non ci siamo, Diego. Lei deve essere fedele tutti i giorni, non che ascolta casualmente Cuore Denari. No, perché l'unica radio che fa aggiornamenti continui sul fatto della Grecia, ero particolarmente interessato, quindi mi sono collegato con voi per avere in diretta se c'è la volta. Ci dica tutto, Diego. Poi ho sentito che state appunto parlando di un settore che a me interessa relativamente poco, perché io da anni ho già abbandonato l'idea proprio di avere la proprietà concettualmente così come noi la conosciamo, però sono stato incuriosito da tanti professori che in questi anni, non soltanto per radio ma anche in televisione, hanno incominciato a esprimere giudizi e pareri senza, secondo me, nessuna capacità di capire e di avere una minima coerenza di quella che è la realtà oggi del mercato. Diego, andiamo alla ciccia, perché sennò mi porta via tutto con il suo editoriale e il programma. Ecco. No, le banche che hanno sostanzialmente sono le responsabili fondamentali di tutto questo caos che è nato intorno al problema degli immobili, non hanno mai considerato la possibilità di istituire un servizio di tutor per quelli che eventualmente vogliono acquistare casa, e non hanno mai utilizzato la loro competenza, soprattutto negli ultimi 5 anni, ecco, per cercare di rimettere sul mercato tutte le case che sono paralizzate, che loro stessi non hanno possibilità di vendere, di fatto bloccando enormemente il mercato. Allora Diego, guardi, intanto mettere sul mercato e riversare sul mercato tutti gli immobili che derivano appunto da mutui non pagati non è che sia proprio un'operazione facilissima, no? Righi, in primo luogo. Secondo cosa, le grandi banche italiane lo stanno facendo, e per mettere in piedi anche con le due grosse strutture che adesso porteranno sul mercato attraverso il sistema bancario questi immobili, ci è voluto del tempo, perché per l'Italia era proprio un territorio inesplorato, come lo definirebbe Mario Draghi. Righi, detto questo, quello che contestava il nostro ascoltatore è che forse manca collaborazione fra il comparto bancario e quello immobiliare. In realtà sono due mondi che si parlano, e come, poi farli dialogare naturalmente non è semplice. No, guardi, noi col mondo bancario abbiamo un ottimo rapporto, molto spesso conflittuale. Sono tutte le reti di mediazione creditizia. Molto spesso conflittuale. Molto spesso conflittuale, ma è perché riteniamo che in questo paese, se ognuno facesse bene il proprio mestiere, il paese andrebbe meglio. Ma ad esempio il tema dei non performing loans, cioè degli immobili che sono in contenzioso, è un tema molto delicato. La legge italiana vieta alle banche di vendere gli immobili frutto del loro contenzioso, cioè se io presto denari a qualcuno per acquistare la casa, devo metterla all'asta, non sono io banca che posso procedere alla vendita. Questo infatti per l'antitrust ha accolto il vostro ricorso, che aveva sollevato proprio questo aspetto, no? Sì, la Banca d'Italia anche sta lavorando sui nostri ricorsi, ma il tema vero del mercato oggi, al di là di quello che diceva l'ascoltatore, è che i prezzi sono scesi tanto, mettendo in difficoltà anche le imprese di costruzione. Le banche stanno cercando di ridare un attimo di ossigeno, perché colpevolizzare sempre le banche, che sono poi il motore dell'economia, non ha neanche so, è un esercizio che ci piace, ma prima o poi dovremo smettere pure di farlo, perché le tanto ci servono prima, esatto, le accusiamo prima di aver concesso troppo e oggi di aver concesso, di concedere poco. Guardi, come invece, ha ragione. Invece il mercato invece è un mercato che in questo momento, proprio anche alla luce della Grecia, dei fatti accaduti in Grecia, a mio parere potrebbe diventare più interessante? Potrebbe diventare interessante, perché la volatilità dei mercati finanziari, che secondo me esploderà nel futuro. Veloce, che devo oggi, chiudere? Potrebbe essere sostituito dall'investimento immobiliare, che oggi si ritorna ha dei prezzi veramente al solido mattone. Righi, verificheremo nelle prossime settimane. Intanto grazie a tutti per essere stati con noi. Non ho sentito neanche una quotazione da nessuna città e si vede che nessuno stamattina è andato a caccia di affari immobiliari. Noi torniamo domani da Montepulciano. Attenzione, sì, stiamo partendo. A domani.